Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi parliamo di sguardo, del nostro sguardo. Si posa sugli altri, scruta il mondo, ci permette di vedere e guardare, e non solo in superficie. Ma allo stesso modo, se ci pensate bene, il nostro sguardo racconta noi agli altri. Insomma, è una finestra, una specie di finestra, che mette in comunicazione il dentro e il fuori. Quante volte vi siete sentiti dire: sembri un po' triste, ma tu sei un po' stanco, ma cosa ti sta succedendo? Da un amico, da una persona, da un conoscente che ha intercettato il vostro sguardo. Insomma, non è solo un organo di senso, mi verrebbe da dire, ma un vero e proprio organo di relazione. Allora, oggi vogliamo insieme capire come fare una buona manutenzione del nostro sguardo. In studio con me il dottor Antonio Scialdone, che è responsabile dell'unità operativa oculistica Prima Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Al telefono avremo anche molti altri ospiti che ci racconteranno aspetti inediti e interessanti collegati al nostro sguardo. Intanto, dottor Scialdone, ci dia una specie di preavviso. Al di là dei tagliandi che ogni persona più o meno periodicamente deve fare per la salute del proprio sguardo, quali sono le manutenzioni necessarie, i gesti di cura dello sguardo che permettono di preservarne l'integrità e l'intensità e mantenerla? Ma diciamo non molte cose, ma a mio avviso importanti. La prima cosa è, dal punto di vista proprio puramente medico, sì, anche se stiamo bene, benissimo, e va bene così, ricordiamoci, quando siamo arrivati a 40-45, di fare una visita oculistica. Un tagliandino. Se va bene quello, siamo a posto per altri 10 anni o 15, quindi questo sicuramente. Secondo, non sottovalutiamo i segnali di stanchezza. Oggi la nostra è una civiltà dello sguardo, della vista, e quindi facciamo quasi tutto con gli occhi. Web, la rete, relazioni fra persone, i cellulari, tutto quello che vogliamo. Gli smartphone sono occhi, sono sguardo. Senza la vista siamo perduti oggi. Quindi i segnali di affaticamento vanno riconosciuti e in qualche modo, come dire, trattati. Quindi un po' di ginnastica, un po' di rilassamento oculare, ogni tanto, ogni spesso, diciamo. Ogni spesso mi piace. Queste, diciamo, sono le cose proprio essenziali. Allora, a voi amici da casa chiedo subito di intervenire scrivendo messaggi al 349-238-6666, oppure sul nostro profilo Facebook, oppure chiamando il nostro numero verde che è a vostra disposizione, 800-24-0024. Abbiamo il dottor Scialdone con noi tutta l'ora, pronto a rispondere alle vostre domande, soprattutto ad aiutarvi, proprio come dicevamo ieri, a prendervi cura di voi stessi. Ma vorrei anche stimolarvi a inviarci la vostra personale idea sullo sguardo degli altri. Cosa deve avere uno sguardo per calamitare la vostra attenzione? Quali caratteristiche rendono uno sguardo magnetico per i vostri occhi? E mi piacerebbe sapere anche qual è lo sguardo che vi è rimasto dentro. A chi ci invierà le parole più intriganti per raccontare lo sguardo della sua vita, noi invieremo a casa il libro Lo sguardo dell'ombra di Chicca Gagliardo, Ponte alle Grazie editore, in collaborazione naturalmente con IBS. Intanto, dottor Scialdone, quali sono le prime cose che ad occhio nudo lei come specialista va a ricercare in uno sguardo? Diciamo diverse. Non è un modo per scroccarle una visitina in diretta, eh? Dunque, innanzitutto io guardo se la persona guarda con ambedue gli occhi, o se ce n'è uno che, ad esempio, può essere deviato, sporgente, anomalo, con la palpebra cadente, che mi può segnalare una possibile anomalia di tipo clinico. Poi guardo se ha gli occhi rossi o li ha normalmente iniettati, o se ce n'è uno più rosso di un altro. Poi guardo se tiene gli occhi diciamo fissi verso l'avanti, e alcune persone, soprattutto ovviamente anziane, ma non solo, guardano in avanti e non guardano in giro. Questo mi segnala che vedono poco, ad esempio, quindi non girano gli occhi, perché sarebbe inutile, perché ormai sono nella fase successiva. E poi guardo, ad esempio, se tutto il contorno degli occhi corrisponde all'età della persona. Certo. La presenza in una persona giovane di un bordo palpebrale un po' rossiccio mi segnala che è una persona affaticata, che magari lavora troppo o dorme poco, oppure che ha delle irritazioni croniche. Questo diciamo per cominciare. Allora, intanto voi che cosa notate del vostro sguardo o di uno sguardo a voi particolarmente caro? 800 24 00 24. Il dottor Scialdone, come specialista degli occhi e quindi dello sguardo, vede soprattutto la parte del corpo che costituisce il suo campo d'azione, ma io al telefono ho quello che noi tutti chiamiamo medico di famiglia, ma che in realtà dovremmo chiamare il medico di medicina generale, la dottoressa Raffaella Michieli, segretario nazionale della SIMG. Buongiorno dottoressa. Dottoressa, bentornata. Buongiorno a lei e a tutti. Dottoressa, a noi adesso interessa il vostro sguardo generalista nello sguardo del paziente, perché se il dottor Scialdone, da bravo oculista, guarda gli occhi per quello che sono, voi invece, medici generali, attraverso gli occhi del vostro paziente potete scoprire molto degli organi interni e dello stato di salute complessivo del paziente che avete davanti. Ci aiuta? Certamente, anche perché io dividerei poi quello che è lo sguardo in quanto sensazione che mi dà all'ingresso del paziente e quindi, come dire, lo stato d'animo, piuttosto che, conoscendolo da molto, variazioni rispetto al suo normale habitus, dallo sguardo clinico, nel senso quello che effettivamente, come diceva il collega oculista, possiamo vedere come dati obiettivi all'interno dell'occhio. Allora, quindi, procediamo. Quindi già l'ingresso del paziente e il suo sguardo mi sta guardando o non mi guarda per niente, cioè mi sfugge, c'è qualche cosa che non va, già questo, come dire, non guardare è già un segno. Se mi guarda, se ha uno sguardo triste piuttosto che no, insomma, una valutazione rispetto alla nostra conoscenza, e questo è relativo soprattutto a quel 30% di pazienti che noi tutti i giorni vediamo con patologie cosiddette distimiche, cioè disturbi dell'umore. Sì. Invece, per quanto riguarda i dati obiettivi relativi all'occhio, come diceva il collega, noi possiamo vederci tante cose ed è anche un peccato che qualche volta ci soffermiamo poco, se posso dirlo, perché l'occhio, così come una volta si guardava la lingua, sì, le mani, no? Tutte cose che adesso cominciano a essere più sfuggenti perché ci basiamo tanto sui dati di laboratorio, invece qualche volta basta guardarci a fondo, quindi l'ittero, per esempio, quando le sclere sono già o quando sono troppo pallide, l'anemia, questo è molto importante anche nei pazienti che hanno per esempio mancanza di fiato, perché un cardiopatico anemico ha più mancanza di fiato di un cardiopatico punto. Certo. Oppure possiamo vedere degli esoftalmi, cioè delle alterazioni che sono legate a patologie della tiroide, che sì, sono molto frequenti soprattutto nelle donne in postmenopausa, per esempio. E poi abbiamo anche, potete, cioè il rossore, ad esempio le mucose un po' troppo. Poi c'è il classico occhio rosso. L'occhio rosso, il collega saprà dire certo meglio di noi, ma noi abbiamo fatto volumi sull'occhio rosso per evitare di mandare gli occhi rossi poi in pronto soccorso, no? Però l'occhio rosso, che molto spesso spaventa, quelle delle piccole emorragie, molto spesso in pazienti sani è solamente, se posso dire, una cosa banale, tipo quello che classicamente viene detto colpo d'aria, no? Una volta misurata la pressione, controllate le condizioni generali, si possono tranquillizzare, per esempio, ed evitare quei soliti accessi impropri, no? Anche al pronto soccorso. Sì, assolutamente. Se posso permettermi, diciamo, la dottoressa Michieli dice delle cose correttissime, aggiungerei solo una cosa: quelli che hanno delle emorragie sottocongiuntivali ripetute, in qualche caso direi la cosa è certamente sopravvalutata rispetto alla realtà. Qualche volta questa cosa è stata un segnale di una discrasia ematica, quindi di una malattia del sangue, che si può essere manifestata come prima cosa come proprio emorragia, a livello oculare. Poi queste cose vengono sempre, certo, ripeto, esagerate, perché non, quindi guardiamoci, osserviamoci anche al mattino, anche solo per darci il benvenuto, perché quando ci guardiamo allo specchio, quando ci laviamo la faccia, dopo che ci diamo la crema, per gli uomini che si fanno la barba, occhio ai vostri occhi, raccontano tanto dei nostri stati emotivi ma anche della salute dei nostri organi. Dottoressa Michieli, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Allora, insomma, gli occhi come uno specchio di qualcosa che può essere visto solo avendo uno sguardo attivo. attento. Ma torniamo alla manutenzione dello sguardo. Quali sono gli errori più comuni, dottor Cialdone, che le persone fanno quando maltrattano i loro occhi? Così rispondiamo poi anche a alcuni sms che stanno arrivando al nostro 349-238. La prima cosa che mi viene in mente è l'esagerazione con le lenti a contatto, per esempio. Mm. Quello di non portarle per i tempi giusti. Sì, e non che togliersele. Sono? Beh, che sono, quando c'è una buona tollerabilità di base, sono togliersela la sera quando si torna a casa e lasciare 2 ore d'aria, chiamiamo così, perché l'ossigeno corneale viene dall'aria. Questa è la prima cosa. La seconda è continuare a lavorare al computer senza fermarsi. C'è la 6-2-3-Breaking News. Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato alcune misure per il rilancio dello sviluppo e leggiamo modifiche agli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione sulla libertà di impresa, e poi è stata varata anche una riforma degli incentivi, ma naturalmente i dettagli nelle prossime edizioni di GR24. E noi riprendiamo subito insieme al dottor Cialdone ad occuparci del nostro sguardo e dei nostri occhi. Quindi lenti a contatto, lenti, mi raccomando, a contatto, e fate respirare i vostri occhi. Esattamente. Anche se dovete portare fuori l'amoroso, andare con il moroso, mettetevi gli occhiali. Ma guardi, io cerco... meglio non mettersi niente, perché a volte così? Certi sguardi, diciamo, magnetici sono soltanto da miopia, sostanzialmente. Quindi, c'è uno sguardo nel vuoto, senza la seduzione dello sguardo. Esattamente. Non ci voleva sedurre, non ci stava vedendo. Esatto, sì, a volte ci illudiamo, eccetera. Quindi dicevo, il sovraffaticamento, ecco, quello, il richiedere troppo per troppo tempo. Andrea Mario, che ci chiama da Torino. Buongiorno Mario. Buongiorno, io avrei 3 mini domande molto veloci da porre al addirittura. Dottore. Sì, veloci. La prima è, a me capita sovente di lavorare molto al computer o comunque forse affaticare la vista. Dopo un po' di tempo una delle due palpebre, l'occhio sinistro, denuncia una stanchezza o comunque si occlude più dell'altro, lasciandomi una faccia, le dirò, neanche troppo presentabile. Volevo un po' da pesce bollito, come si dice. Esatto. Volevo sapere se questa sproporzione era normale o dovevo preoccuparmi. Inoltre poi, sempre a seguito magari della stanchezza, a volte leggendo il giornale mi rendo conto che è come se dovessi affaticarmi a mettere a fuoco, mi dura per poco tempo, no? Come a volte quando si usa il programma di Word del computer, che il computer non legge bene le righe, poi tu sposti il mouse e nuovamente torna a riproporre, no? Io ho lo stesso problema con gli occhi. E infine volevo sapere se gli iridologi veramente sono da prendere in considerazione e possono segnalarti delle patologie soltanto guardandoti negli occhi. Allora, grazie Mario. Facciamo una specie di bignamino. Sì, sì, sì. Beh, diciamo, mi sembrano i sintomi abbastanza tipici di un difetto di vista non corretto. L'ascoltatore ha una voce che mi sembra relativamente giovanile, però nell'età di passaggio magari tra il non portavo o l'avrei dovuto e quindi dovrei invece. Quindi gli consiglierei, anche l'abbassamento della palpebra può essere semplicemente un segno di affaticamento, non mi preoccuperei di questa cosa qui in modo eccessivo. Gli iridologi, voi oculisti siete un po' scettici, ma io direi 5 anni fa è stato fatto uno studio in California e hanno fatto una randomizzazione, cioè hanno messo a caso persone in un gruppo e in un altro per fare delle diagnosi con gli iridologi. Sì. Risultato, risposte quasi a caso. Certo. Adesso, che però è affascinante l'iridologia. Sì, quello sì. Gli iridologi dicono che questo non vuol dire, perché si parte da presupposti non occidentali. Insomma, qui siamo insomma sulle solite... Io penso che se una persona sta bene, sono tutte modi, no? per seguire, mantenere il proprio benessere, delle aperture. Tra l'altro posso dire che alcune macchie sull'iride sono in realtà poi dei veri segni clinici. In casi di infiammazioni o anche di malattie intestinali esistono proprio, già codificate da molto tempo, delle alterazioni che anche gli oculisti considerano come segnali di altri organi. ricordate questa canzone Everybody Hurts? Ve l'avevamo già fatta ascoltare in un'altra puntata perché era proprio in cima alle canzoni alle quali facciamo ricorso quando siamo tristi. Ma oggi invece della canzone ci serve soprattutto il gruppo che la canta, i REM, una sigla che nasconde una grande verità. Anche quando lo sguardo viene apparentemente spento, chiudiamo gli occhi, i nostri occhi non smettono di lavorare. E per capire uno dei processi più misteriosi e allo stesso tempo più affascinanti del nostro corpo, in linea con me il professor Luigi Ferini Strambi, che è responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. L'accolgo ad occhi chiusi, come si dice. No, gli occhi li tengo ben aperti, anche perché sto lavorando da diverse ore, quindi non posso permettermi il lusso di chiudere gli occhi. Anzi, si muovono molto, proprio perché sto continuando a saltare da un lavoro scientifico all'altro, quindi sto scrivendo una cosa, quindi li sto muovendo molto, sono molto in attività. Senta, professore, che cosa sono i REM? Perché voi specialisti del sonno ne siete così attratti? Sicuramente è uno dei fenomeni, diciamo così, più affascinanti di quello che succede durante la notte. Ma allora, innanzitutto, volevo fare una precisazione. Noi siamo sempre portati a ricordare appunto i REM, cioè i movimenti oculari rapidi, che avvengono appunto durante la fase REM, che è la fase sostanzialmente coincidente con quella dei sogni. Ecco, però volevo ricordare che oltre ai REM ci sono anche i SEM, cioè gli slow eye movement, cioè i movimenti oculari lenti, che sono quelli che si osservano invece in fase di addormentamento. Se dormiamo accanto a qualcuno, abbiamo la possibilità di osservarlo quando si addormenta, noteremo che sotto le palpebre ci sono questi movimenti oculari molto lenti. Ecco, quelli appunto non sono i REM, ma sono i SEM, gli slow eye movement, che coincidono proprio con la fase di addormentamento. Ma torniamo ai REM, sicuramente i movimenti oculari rapidi sono molto affascinanti perché, ad esempio, c'è una prima cosa molto caratteristica. Noi sappiamo che durante la notte ci sono 4-5 volte in cui si cade in questo sonno REM, cioè ci sono 4-5 periodi REM. Allora, una cosa interessante è questa, che nel corso della notte la densità di questi movimenti oculari, cioè quindi la frequenza di questi movimenti oculari, tende ad aumentare, cioè quindi vuol dire che muoviamo molto di più gli occhi nell'ultimo periodo REM, ad esempio verso le 6 del mattino, le 7 del mattino, rispetto appunto al primo periodo REM che possiamo avere magari intorno a mezzanotte e mezzaluna. Cioè, quindi c'è un incremento e questa sicuramente è una cosa molto interessante, anche perché sappiamo che ad esempio i soggetti, se vengono messi in una condizione di privazione di sonno e poi vengono fatti dormire, ecco, non hanno ad esempio questa caratteristica, questo caratteristico aumento di questa densità nel corso della notte. Il dottor Cialdone voleva farle una domanda. L'esperto chiede all'esperto. Ciao Ferini, senti, volevo chiederti una cosa. Dovendo dare un consiglio, ammesso che si possa fare, qual è secondo te la durata ideale di un pisolino minima? Tu intendi pisolino di riposo a mezza giornata? Quello che ci piacerebbe fare dopo pranzo. 10 minuti, ecco, un quarto non più d'ora. Di 20, non più di 20-30 minuti. E questo, tra l'altro, appunto ci consente sicuramente di non mai arrivare al sonno REM, cioè quindi nel sonnellino pomeridiano, proprio perché se fatto di breve durata non c'è la possibilità di arrivare al sonno REM. Oddio, è anche vero che qualcuno ci arriva, ma in quel caso si tratta di qualcosa, insomma, di patologico. Insomma, se guardiamo i movimenti del suo occhio mentre dorme, lo sgamiamo, questo sì, possiamo dire. Certo. Quindi soprattutto i mariti che dicono non dormo mai, ero qua un attimo appisolato, guardate gli occhi anche di vostro marito quando dorme. Professore, grazie per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie anche a voi, buona giornata. Noi andiamo a sentire i mercati, il meteo, poi ritornate qua perché parliamo di ginnastica oculare, oggi vi faccio lavorare, oltre a far lavorare il dottor Cialdone, che è pronto a rispondere alle vostre domande per metterci in condizione di prenderci cura del nostro benessere. 800 24 00 24, voilà, mercati. Essere e benessere. No, 4 ore ogni 2 gocce, signore. Avanti, 2 gocce ogni 4 ore. Permesso! Si accomodi. La richiamo io, signore, che c'è un cliente, grazie. Buongiorno. Buongiorno, signor dottore oculista. Non ce n'è bisogno, ma io sono venuto da lei per passare una piccolissima visitina alla vista. Mi scusi, signore, mi scusi. Guardi che l'oculista sono io, quello è l'attaccapanni. Ah, mi scusi anche lei. Dove va? Dove va? Da questa cosa qua? Qui, dove qui, va? Si accomodi qui. Dove qui? Si accomodi qui. Ah, va bene. Su questa sedia. Insomma. Ma come mi dice se accomodi? Scusi, c'è una sedia, la sedia. C'è la sedia, ma lo so. Stia calmo. Ma scusa. Oh, lo sa che qui è questore di Cornea? Senta, cominciamo a parlare bene. Le ho detto che sono scapolo. Non parliamo di Cornea. Per me ha le cornea infiammate. No, io non ho cornea per niente. Mi dico, lei è presbite miope o astigmatico? Io sono palermetano. Bene, quindi miope. Di mamma. Ci siamo. Papà era etiopico. Ve li ricordate Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, una gag dall'oculista? E bisogna intendersi, dottor Sceldone, è un incontro, magari chissà quante volte anche nel suo ambulatorio visitando i pazienti è scappata una risata. Sì, frequentemente. No. Allora io vorrei dare voce ai nostri ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24, ma anche a chi ci sta scrivendo un messaggio 349 238 6666. Iniziamo da Giacomo che ci chiama da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Giacomo, solo un'informazione, sentivo la vostra trasmissione molto interessante e avevo una domanda da porre al dottore. Sì. A me capita, sono un agente di commercio, sono stesso in macchina, capita quando ci sono delle giornate molto limpide o anche quando c'è nebbia di vedere delle piccole macchioline nere davanti agli occhi. Le macchioline rimangono anche nel momento in cui eventualmente chiudo gli occhi e tende però ad attenuarsi se metto un assurdo, ma gli occhiali da sole anche se c'è nebbia. Mi capita anche magari quando leggo il giornale alla sera o la mattina presto. Macchioline, moschine, questo è esatto, un grande classico. Esatto. Posso dire, Giacomo, mal comune mezzo gaudio, dottor Sceldone, certo, di questi nostro vermicelli, macchioline, moschine, ne abbiamo parlato tante volte, esatto. Preoccupano perché sono fastidiose, ma... ma non sono pericolosi. Giacomo, stia sereno. Esatto. Perfetto, la ringrazio. Grazie a Giacomo. Federico dalla provincia di Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo fare anche una domanda al dottor Sceldone. Praticamente io ho avuto dei calassi circa un annetto e mezzo fa, gli occhi sia al destro che al sinistro, mi sono venuti in momenti diversi, circa uno praticamente me lo sono anche operato. Da solo? No. Ah, no, perché mi diceva, perché sa che ogni tanto noi facciamo delle cose assurde e provo, mi esperimento, divento chirurgo di me stesso. No, quindi allora innanzitutto diciamo i calazzi, dottor Sceldone, sono delle specie di brufoli. Sono dei micro, diciamo, ascessi o microinfiammazioni, sì, ovviamente infettive delle ghiandole delle palpebre. Mm. Che sono tante, quindi quando uno ha un'irritazione cronica come il nostro amico ascoltatore. Ecco, possono lasciare la palpebra infiammata a lungo anche dopo che sono andati via? Sì, direi il contrario, cioè la palpebra infiammata che quando supera un certo limite genera dei calazzi, perché i batteri che sono onnipresenti si infiltrano in un terreno poco buono, poco adatto e quindi generano questa infiammazione interna. Vorrei rispondere a Simona perché ci segnala una cosa che facciamo abitualmente, molti di noi fanno. Lei ci scrive: 56 anni, non riesco più a leggere senza occhiali, uso occhiali gradazione 3 senza aver consultato un medico. Capita, no? Si diventa presbite e insomma è un po' un regalo degli anni. Sì, non, beh, è una, certo, non è una, assolutamente non è no, un... No, io ho una cliente che va frequentemente in Cina e compra a mezzo euro, sì, cassettate di lenti, non importa di che diottrie, ma l'importante è che siano belli. Sì, e poi prima o poi serviranno, no? Prima o poi serviranno e cambia, va benissimo. L'unica cosa che suggerirei è: va bene, ci vedo bene con gli occhiali poi premontati, che sono regolarmente in commercio e fabbricati anche in Italia, di buona qualità, eccetera, sono uguali a destra e a sinistra. Mm. Senza avere un'idea se si ha un difetto particolare, almeno controllare un occhio per volta che la vista dei due a distanza di 30-35 cm sia circa uguale nei due occhi. Quindi, se c'è una differenza di una certa, evidentemente qualcosa non quadra. Andiamo a Loredana da Vicenza e poi preparatevi perché ho un esercizietto semplice per voi che poi impariamo rapidamente ogni tanto quando abbiamo tempo lo facciamo. Loredana da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Deve abbassare la radio. Loredana, grazie. Sì. Volevo chiederle i sintomi della postmenopausa di una donna, quindi io ho 47 anni, comincio ad avere un po' il ciclo che salta, la pressione un po' alta e gli occhi che tendenzialmente mi si luccicano spesso, mi dà fastidio molto la luce, non riesco a truccarmi e quindi sono cose abbastanza... Un po' fastidiosine, Loredana. Insomma. Sì. Allora, dottor Cialdone, ma la menopausa... Insomma, può avere in qualche modo anche, può disturbare anche la nostra vista? Sì, soprattutto la superficie. Oltre a farci venire caldo, un po' di irritabili. Che non è l'amore. Che non è l'amore. Ma magari sì. Perché certo, magari sì, l'amore sì. Che nasce. Vabbè, comunque, questa è un'altra puntata. Vi rimandiamo al guardiano del faro per parlare d'amore. Alla guardiana del faro. Dottor Cialdone. Cambia soprattutto la superficie oculare. Perché la qualità delle lacrime e dei grassi che compongono le lacrime si modifica perché cambiano gli ormoni, si riduce la quantità di ormoni, quindi il film lacrimale diventa un pochino più instabile e la superficie dell'occhio, che è un sistema diciamo piuttosto complesso dal punto di vista biochimico, un po' ne soffre. Quindi gli occhi si scoprono un po' di più, cominciano a pizzicare, danno un pochino di fastidio. Ma noi che cosa possiamo fare? Possiamo ad esempio, come mi chiede un ascoltatore, bere tanta acqua per aiutare l'idratazione degli occhi? Domanda. Quello sicuramente prendiamo aiuta. I mirtilli, in America i mirtilli vanno alla grande. Io suggerirei la borragine. Oh, dottor Cialdone. La borragine, che in Liguria va un po' di più che da noi. Si mangiano anche i ravioli con il ripieno di borragine, esatto. Che sono squisiti. In erboristeria, in farmacia, sono facilmente reperibili delle compresse di estratto di borragine. La borragine contiene degli acidi grassi che sono piuttosto simili a quelli delle lacrime. Quindi l'assunzione non solo rende la pelle più morbida, ma è fantastico, due piccioni con una fava, con una borragine. Esatto, anche un pochino, un grammo e mezzo al giorno a seconda del peso eccetera delle persone, e c'è una buona probabilità che diminuiscano poi i sintomi. E per quanto continuiamo questa almeno diciamo un borragine mesetto therapy, e poi un mesetto. Ovviamente le compresse, ma i ravioli non valgono. No. Allora, dato che oggi parliamo di come preservare il benessere visivo, voglio suggerirvi un esercizio molto semplice, una sorta di ginnastica oculare, lasciatemela definire così, che è un po' come l'esercizio fisico, potrebbe diventare una sana abitudine quotidiana. Ogni giorno dobbiamo imparare a fare qualcosa per noi. Sbattete ripetutamente le ciglia contando lentamente fino a 20. Tenete chiusi gli occhi per altri 20 secondi. Terminate l'esercizio mantenendo gli occhi ben spalancati il più possibile, almeno 20 secondi. Potrete ripetere questo esercizio nel corso della giornata, soprattutto se restate a lungo di fronte a libri o a computer. Una pausa di questo tipo vi aiuterà a rilassare la muscolatura dell'occhio e a spezzare la concentrazione. E ne parliamo con la dottoressa Chiara Villani, ortottista dell'IRCCS Fondazione Bietti di Roma. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno a voi. Io prima di darle la parola devo invece dare spazio alla viabilità e torniamo subito dopo insieme. Intanto, se volete esercitarvi, sbattete le ciglia contando lentamente fino a 20, tenete chiusi gli occhi per altri 20 secondi, terminate l'esercizio mantenendo gli occhi ben spalancati il più possibile, almeno 20 secondi, e poi intanto che ascoltate la viabilità, esercitatevi. Essere e benessere. Tu sei mia, sei mia. Io grido nella brezza serale che mi travolge la vedova voce. Tu depredi il fondo dei miei occhi e nel tuo furto ristagna come l'acqua il tuo sguardo notturno. Pablo Neruda. Versi che toccano l'anima, e i nostri occhi sono anche lo specchio della nostra anima. Dottoressa Villani. Sì. Allora, io vorrei sapere da lei, che è un ortottista, sì. che cos'è l'ortottista? Che cosa fate? Perché? Ecco, scusate, sì. Mi intrometto. Allora, diciamo no, che aspetti che il nostro oculista vuole dire la sua. Adesso, ortottista forse è una dizione vecchia, adesso c'è assistente in oftalmologia. Assistente in oftalmologia, va bene, ok. Che cosa fate? Che figura è? L'ortottica, diciamo che è una branca dell'oculistica che si occupa dei disordini della motilità oculare e della prevenzione e del trattamento dell'ambliopia, che è il classico occhio pigro. Sì. Chiaramente nei bambini è importante seguire un esame del fondo dell'occhio dopo la nascita ed un secondo esame eventualmente viene eseguito sia ortottico che oculistico tra i 2 e i 3 anni di vita per poter scongiurare che si sia instaurato un handicap visivo in questo periodo. Sì. In uno dei due occhi. Chiaramente è il non uso di un occhio che crea poi questa ambliopia. Può essere causata da vari fattori. Come patologie. Fa una mamma non a sostituirsi naturalmente al medico, ma a capire che nello sguardo del suo bambino piccino qualcosa magari non va come dovrebbe? Insomma, quali sono i segnali? Allora, i segnali sono: se un occhio è esteticamente deviato, la mamma se ne può accorgere. Certo. Altrimenti, come nel caso del microstrabismo o dell'anisometropia, è soltanto l'ortottista con l'oculista che riescono a fare diagnosi di queste due patologie e poi eventualmente a trattarle. Però alle mamme chiedo anche conferma al dottor Cialdone, bambini piccoli, se vedete che il vostro bambino ha uno dei due occhietti un po' stortino, è opportuno certo, rivolgersi all'ortottista o all'oculista, perché si vede soprattutto poi col cervello, no? Vediamo con gli occhi, ma è tutto dalla anche cabina. Se ci sono storie familiari. Ecco, se ci sono storie familiari è importante preservare e curare la salute visiva dei più piccoli. Ma dottoressa Villani, noi vogliamo parlare di ginnastica oculare, una specie di rilassamento, di stretching che possiamo fare per dare benessere ai nostri occhi. Abbiamo suggerito un brevissimo esercizio. Lei come ci può aiutare per prenderci cura di noi? Un esempio importante durante l'uso del personal computer, perché siamo portati durante l'uso di questo computer a fissare lo schermo, quindi in questo frangente siamo portati ad aprire e chiudere poco le palpebre. Chiaramente l'ammiccamento palpebrale, oltre ad essere un meccanismo di difesa, è un atto che serve a lubrificare l'occhio stesso. Ne consegue che durante l'uso del computer, aprendo e chiudendo meno le palpebre, il film lacrimale che fisiologicamente è presente nell'occhio tende un po' ad evaporare. Certo. E quindi questo ricambio del film lacrimale viene meno assicurato. Per questo uno dei motivi per cui dopo un uso prolungato del computer abbiamo gli occhi arrossati. Quindi noi al computer ricordiamo di ammiccare, facciamo degli esercizi di ammiccamento. Per chi invece deve stare attento, penso molto attento, alla strada, penso alle persone che stanno per ore e ore in macchina, ci sono molte persone che mi stanno scrivendo, faccio il camionista, sono stanco, la gente di commercio sono sempre in macchina, quale esercizio possiamo suggerire, dottoressa Villani? Ma durante la guida, per esempio, è utile prendersi delle pause ogni ora e mezzo, ogni 2 ore, anche se non se ne sente la necessità, sia per spezzare la concentrazione che per far riposare un po' la vista. Pensate che durante la normale visione noi coinvolgiamo 16 muscoli oculari, perché 12 sono interessati, 6 per occhio durante i movimenti, e 4 li coinvolgiamo per la messa a fuoco. Quindi solo per guardare noi coinvolgiamo 16 muscoli del nostro corpo, senza pensare alla mimica facciale, alla postura del collo, eccetera. Per cui durante la guida possiamo fare questa pausa, e durante tale pausa è bene guardare il più possibile in lontananza per qualche minuto, perché questo ci aiuta a mettere a riposo appunto questi 16 muscoli oculari che sono coinvolti durante la visione. Ecco, sono tanti, eh? Sono tanti, uno non ci pensa, ma sono tanti. Tanti. No, tra l'altro i muscoli oculari, siccome sono continuamente in movimento, in proporzione alla loro grandezza sono fra i muscoli più forti che abbiamo. Però, durante il sonno, certo, non si riposano praticamente. Non si mai. Riposano mai. Ecco, io aggiungerei a quello che sta dicendo giustamente la dottoressa Villani il discorso degli occhiali da sole. Sì. Cioè un occhiale da sole, anche quando c'è nuvolo, protegge, ma esatto, rilassa molto di più quando bisogna guidare per delle ore. E noi tante volte parliamo, guardiamo una persona e dal suo sguardo diciamo: beh, questa è una persona intelligente, no? Perché ha lo sguardo vispo. Non tanto di intelligenza, ma proprio dello sguardo che è vispo e attento sempre. Devo esserlo per necessità, pensiamo a chi guida, ma anche a chi pratica sport. Voglio parlare col dottor Vittorio Roncagli, che è un optometrista ed è fondatore di Sport Vision. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Roncagli, lei segue grandi atleti che hanno veramente, penso a Valentino Rossi, no? Che pensiamo a questo sguardo vispo, ma uno sguardo che non perde nulla, non riesce a cogliere proprio tutti i più piccoli movimenti. Sono occhi molto veloci. Ecco, ma questo è il segreto? Ma no, ci mancherebbe, cioè Valentino è un campione perché ha tanti requisiti, tra i requisiti che occorrono per un atleta c'è anche naturalmente il requisito della funzione visiva. Molto tempo fa veniva trascurata, ecco, adesso sta cominciando a diventare più di attualità perché ci si rende conto che qualsiasi gesto motorio è fondamentalmente basato su una percezione principalmente di tipo visivo. E lei ha affiancato molti atleti, vero dottor Roncagli? Sì, questi 25 anni abbiamo lavorato molto. Abbiamo fatto 3 Olimpiadi e poi alcune migliaia di atleti tra professionisti e semiprofessionisti, dilettanti, occasionali. Ma si nasce così o ci si può allenare? Dunque, qui c'è la grande guerra. I neurofisiologi qui combattono da sempre. In realtà probabilmente hanno ragione entrambi. Cioè esistono dei prerequisiti probabilmente facilitanti alla nascita, ma esiste sicuramente un grande ruolo dell'educazione percettiva che avviene nei primi anni di vita. Quindi fondamentalmente bisogna avere dei prerequisiti, ma poi anche essere abituati a esercitare queste funzioni in maniera appropriata. Vediamo nei bambini. Ecco, quindi iniziamo fin da piccoli. Noi vogliamo, non possiamo diventare ritorniamo all'importanza della famiglia. Non vogliamo diventare campioni in una disciplina particolare, magari non abbiamo più l'età, ma campioni di benessere dell'ambiente. Pensiamo ai guappi di Napoli o agli scugnizzi, che non hanno grandi famiglie, ma però hanno l'occhio. Esatto. Grazie alla dottoressa Villani, al dottor Roncagli, al dottor Scialdone, a voi che ci avete accompagnato e seguito. Scriveteci anche su Facebook, noi vi aspettiamo domani. Essere e benessere.